Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, passo dopo passo la Roma sta tornando, adesso è a meno 6 dal quarto posto e sinceramente dopo la partenza che aveva avuto in questa stagione, un recupero del genere quando manca ancora una giornata alla fine del girone andata ha del miracoloso. È ovvio che nel mirino adesso c'è il Napoli e il suo quarto posto che vale il piazzamento per la Champions League, ma la Roma sta tornando in campionato e non solo, perché in Coppa Italia mercoledì prossimo sfiderà l'Inter in partita secca nel match clou dei quarti di finale che si giocherà a San Siro, ed è questa la finale delle ultime quattro stagioni anticipate eccezionalmente ai quarti. Un po' di calcio di vertice, un po' di calcio di retrovia oggi, con l'aiuto, la partecipazione di un vecchio amico come Alberto Cavasin. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi chiamato. No, grazie a te di essere sempre così disponibile per il punto su qualche situazione. Io ne individuerei tre in particolare. Una riguarda il vertice. Mi pare che in questi giorni ci sia una discreta unanimità sul fatto che non si va verso un campionato come quello di testa, parlo dello scorso anno, in cui si inserì poi ad un certo punto la Roma e arrivò proprio in estremis a giocarsi un testa a testa con l'Inter, che sembrava invece dall'inizio della stagione destinata a fare corsa quasi da sola. La sensazione è che tutto il girone di ritorno vivrà su un testa a testa tra Inter e Juventus in ordine di classifica attuale. È anche la tua impressione? Ma io penso che possa incidere molto le qualificazioni il prossimo turno della Champions League. Sì. Se l'Inter dovesse continuare, la Juve dovesse continuare in Champions, sicuramente avrebbero qualche problema di più in campionato. Si ripercuoterebbe un rendimento che nella classifica dopo la vedrebbe un po', secondo me, penalizzata. Tenere il passo di quelle squadre dietro che possono fare tanti punti e dargli fastidio. Quindi l'Inter e la Juve sono oggi le più forti, hanno un passo, lo stanno dimostrando, però bisogna tener conto comunque, secondo me, del Milan, del Napoli e della Fiorentina e del Genoa, che in assoluto non possono magari aspirare al titolo, ma che possono portare via punti importanti. Cioè tu dici la stagione è ancora così lunga, perché non siamo nemmeno alla fine del girone d'andata, che niente si può escludere anche come inserimenti da dietro ancora. Sì, sì, quantomeno per portare via punti. Non dico in assoluto che Genoa, la Fiorentina e Napoli possono aspirare oggi a vincere lo scudetto, però a portare via dei punti che poi si ripercuotono per magari per la lotta finale tra Inter, Juve e il Milan, che sono le più accreditate. Certo, si diceva della Roma. La Roma a 27 punti ha effettuato un recupero oggettivamente abbastanza miracoloso dopo l'avvio da brividi. C'è chi dice che la Roma, con l'organico che ha, e io sono tra quelli, tra l'altro, sia a questo punto della classifica la favorita per il piazzamento parlo di quarto posto, magari con vista sul terzo, insomma, ma sono i due che poi danno diritto non alla Champions direttamente quanto alle qualificazioni estive. È anche la tua opinione oppure chi è davanti difenderà bene la sua posizione attuale? Sì, io penso che sarà una bella lotta, una lotta dura anche per la Roma. Secondo il punto di vista c'è la soddisfazione, non il problema. Champions, dovesse andare avanti, potrebbe lasciare qualche punto importante per queste posizioni di classifica per il campionato. La Roma è una splendissima, bellissima realtà, quasi più bella dell'anno scorso, secondo me, quella, perché quest'anno si è dovuta rigirare come un calzino, e Spalletti con la società e con il gruppo hanno dimostrato tante cose. L'anno scorso delle cose importanti a livello tecnico, e quest'anno sotto proprio l'aspetto della gestione del gruppo, di riprendersi con grandissima umiltà, la lettura anche della partita che io ho dato col Milan, una squadra che non era la Roma dell'anno scorso, ma che ha giocato bene, ma per il risultato, tante cose, insomma. Io, la Roma è una bella cosa. Dunque, proviamo a spostarci verso il fondo della classifica. La leggo dal basso verso l'alto: Chievo 10, Regina 13, Torino 15, sono le tre squadre che oggi sarebbero retrocesse, Bologna 16, Lecce 17, arrivo fino a Siena 19, perché già Sampdoria 20 mi sembra mi sembra un po' di mancare di rispetto alla Sampdoria, né credo a un crollo del Cagliari che di punti ne ha 22, che sta giocando un calcio eccellente. Come sono combinate queste squadre e quale prospettiva tu vedi a 20 giornate dalla fine, insomma a metà cammino praticamente? Sì, condivido l'analisi di questo gruppo che si deve giocare, lottare tutto il girone di ritorno per restare in Serie A. È chiaro, chi ha meno punti come il Chievo e la Regina hanno qualche problema di più, qualche chance in meno, sì. Che sono punti rispetto, qui ci si salva per un punto, due punti, che oggi non dicono niente ma che alla fine fanno la differenza. E quindi c'è un piccolo vantaggio di quelle che hanno più punti. Ci sono organici che adesso sono anche strutturati, hanno fatto la prima parte del campionato, qualche squadra ha avuto qualche problema e l'ha pagato, adesso danno più una fidabilità di continuità, ma questo vale per il Siena che è quella che è un po' più fuori, che ha più punti, e vale anche per il Chievo. Squadre che lottano alla pari, chi riuscirà ad avere una continuità, un po' di fortuna, una punta che trova l'anno buono e un ambiente che può aiutarli, chi vivrà meglio anche questi momenti di difficoltà avrà più possibilità, magari prolungati, poi può fare la differenza. Tutte queste cose qua possono fare. Alberto, c'è un ascoltatore di eccellente memoria che si chiama Enzo, che scrive il seguente messaggio: un saluto al grande Alberto Cavasin, protagonista di un grande Bari, unica squadra di C ad arrivare in semifinale di Coppa Italia. Non è una cosa di ieri questa, mi sembra? No, è una cosa, insomma, che ha i suoi anni, se non ricordo male. Sì, qui siamo nel... giocavo ed era nel 83-84. Quindi era ancora giocatore. Sì, era giocatore. Io ho 25 anni, prima ero stato in Serie A, poi venne questo Bari di Matarrese con Bolchi, che mi praticamente violentarono, mi portarono questa realtà che io non volevo assolutamente. E fu come le cose che noi delle volte non si vogliono, si rifiutano, sono le cose più belle, bellissime. E una di tra quei tre anni che furono poi due cavalcate bellissime dalla C, noi andammo in A, quindi CB A facemmo. E la prima grande soddisfazione fu quella che eliminammo la Juve i Trapattoni, tutti i campioni che poi andarono a vincere in Spagna, con Rossi, con Tardelli, vinsero lo scudetto poi, quindi fu un anno, quello della Juve, disastroso, anzi. Prima l'eliminammo, la battemmo nelle qualificazioni, ma era a girone, poi ci ritroviamo in un testa a testa, andammo a vincere a Torino e poi pareggiamo in casa con l'aiuto chiaramente del fattore campo e poi andiamo avanti, arrivando la Juve, la Fiorentina, il Passerella, andiamo furono allineati dal Verona che poi vinse la Coppa Italia. Vinse la Coppa Italia quell'anno. Beh, una bella, una grande cavalcata al punto che a Bari, come hai potuto constatare, la ricordano e come. Senti, l'ultima domanda che riguarda la Serie A, poi passerei un attimo anche alla serie inferiore. Parlavamo di lotta per la salvezza. Lo scorso anno, a quest'epoca, il Cagliari aveva esattamente i 10 punti che oggi ha il Chievo. E non solo si salvò, ma si salvò con largo anticipo, con un girone di ritorno assolutamente strepitoso. C'è secondo te una di queste squadre che abbiamo citato, dal Chievo fino al Lecce, che ha le potenzialità per una svolta di quel calibro? Guarda, per me il Chievo rimane una squadra che può avere queste potenzialità, non le ha ancora espresse. C'è arrivata vicino prima con Iacchini, adesso con Mimmo Di Carlo. Fa delle partite dove c'è quantità di gioco, c'è quantità di giocatori. Ricorda il Cagliari. Gli manca la concretezza forse un po' di fortuna che in questi casi ti aiuta anche per fare una serie di risultati. Beh, tira magari perde una svolta. Perde le partite all'ultimo minuto, un po' per sfortuna. Vero. Ha avuto queste situazioni, regge bene con le grandi, poi forse magari gli manca anche a livello dell'organico un qualche giocatore che gli possa fare questo salto di qualità. Il Cagliari dopo è uscita con un calcio bellissimo, con forza, quello che sta poi riproponendo riproponendo oggi, che tutti noi vediamo domenicalmente, vero. Sì, sì. E il Chievo può essere una squadra che ha questa energia e questa struttura anche tecnica. Il potenziale cambio di passo, insomma, ce l'ha il Chievo, più ancora le altre che sono avanti. Sono abbastanza d'accordo, anche se poi i miracoli tipo Cagliari non si ripetono certo. Tutti gli anni. Questo. Oggi sulla carta il Chievo è quello che rischia di più. Certo, certo. Quindi spesso e volentieri qualche ascoltatore ci sollecita un disamina della situazione in Serie B, che mi sembra quest'anno particolarmente, insomma, è sempre stato il campionato dell'equilibrio, poi ci sono stati anni invece diversi, soprattutto quello in cui c'era Juventus, Napoli, Genoa, eccetera. Quest'anno, leggendo questa classifica che dice oggi, a parte un paio di recuperi, ma dice Livorno 35, Bari 34, Parma 33, Sassuolo, Brescia, Empoli, Grosseto 32, Triestina 31, Vicenza 29, beh, insomma, si fa un po' di fatica davvero ancora a capire chi può lottare per la A. È un livellamento verso il basso o verso l'alto, questo che c'è nella parte nobile della classifica? Ma quest'anno io non sono per i grandi stravolgimenti da un campionato all'altro, perché dico che in un mese, tra giugno e luglio, non è che si possono cambiare 200 giocatori connotati, sì, a tutte le squadre, quindi ci vogliono magari i 5 anni per vedere dei grossi cambiamenti e dare dei giudizi di questo tipo. Però effettivamente tra gli ultimi 2 anni e quest'anno la Serie B è molto diversa ed è, secondo me, è in equilibrio verso il basso. Le partite di quest'anno non sono spettacolari, non sono belle, appariscenti come quelle che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. C'è un po' di paura, c'è un po' di mediocrità che frena un po' tutti, e questo ha portato il livellamento di questa categoria, di questo campionato. Poi di cui mi pare, ti interrompo solo un istante, mi pare che il pubblico se ne sia, prima di tornare all'aspetto tecnico, il pubblico se ne è accorto, come mi pare, perché gli stadi della B, a parte poi i soliti discorsi vecchi ormai sugli orari, il sabato piuttosto che la mancanza di certezza sulle date, tutto quello che vogliamo, però di gente veramente no, non ce n'è praticamente più. Sì, qui raccogliamo quello che abbiamo seminato negli ultimi 10 anni proprio, cioè certo, abbiamo con l'anno scorso, poi che l'abbiamo oscurata del tutto questa Serie B, con la poca importanza che il risalto che abbiamo dato. Oggi prendiamo i quotidiani nostri, c'è mezza pagina di giornale, quando sì, fino a pochi anni fa ce n'erano 2-3, quindi piano piano noi abbiamo portato tutta l'Italia a tifare per o la Juve, o il Milan, l'Inter o la Roma, e poi abbiamo una squadra, la seconda squadra del cuore, che però la mettiamo lì perché c'è stata questa evoluzione. Io ne prendo atto, non ne prendiamo atto tutti, insomma, sì. E quindi chi ne è stato più penalizzato è stata la categoria inferiore. Però, ripeto, questo ha portato a far sì che l'equilibrio quest'anno sia proprio regnante. Dico, da Frosinone in su tutti possono pensare di andare in A, anche Frosinone che ha 23 punti, quindi chi ha 23 punti a 35 può pensare di andare ai playoff e poi andare su, e tutti la pensano così. Mi sono fermato un po' presto, infatti, tra le potenziali, mi sono fermato al Vicenza 29, ma comprendendo Albino Lefe, Pisa, Mantova, Rimini, Ancona e Frosinone, si arriva appunto a 23, e con un girone intero da giocare c'è tutto il tempo ancora. Su questo hai ragione. 800 24 00 24, vi ricordo il numero per i vostri interventi in diretta, che inizieranno tra poco. Ad Alberto Cavasin volevo ancora chiedere questo. Hai parlato del Frosinone, è stata la tua ultima esperienza della scorsa stagione. Si è conclusa come? Perché non mi è stato chiarissimo proprio. No, è un campionato dove abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissi, e che non succede, difficilmente succede. Questo è vero. E quindi un po' oltre, siamo andati un po' oltre, siamo sempre stati sopra quello che la società si era prefissa. Quindi tutto è andato benissimo, un buon rapporto con il direttore, con tutti, è molto buono. E io sapevo che loro avrebbero puntato molto in alto e avevo dei dubbi che riuscissimo a farlo pur credendo molto nelle mie, soprattutto nelle mie capacità, sì, ma che la struttura fosse adeguata avrebbe, per questo sì, salto. Ho detto, probabilmente mi creo qualche problema per il prossimo anno. E ci siamo lasciati con benissimo, proprio così, ci siamo trovati d'accordo, che uno dice, vabbè, vorrei dire che tanto d'accordo non andavate, no? Quando dopo ci si lascia, invece ci siamo confrontati così, come sto parlando adesso, e chiaramente qualcosa c'era, nel senso che non credevamo appieno a una stagione puntando su degli obiettivi, però ripeto, li abbiamo analizzati e ognuno nel proprio ruolo dopo ha deciso che era una cosa saggia, bella, e abbiamo trovato l'unità di intenti anche nel lasciarci, e così è andata. Poi io che speravo, credevo di ritrovare subito una situazione, e ho preso questa decisione che sembrava che era un po' così furba, diciamo, no? Perché avevo già qualcosa, sì. Invece queste decisioni che io ho preso anche in altre situazioni, ho sempre cercato di allontanare il tutto per vedere se era vero quello che andavo a fare, o se me la raccontavo, e così è andata anche questa volta, insomma, non c'era niente dietro, e adesso sto aspettando squadra, adesso poi quando passa il tempo che non inizi con una squadra, io tendo sempre più ad aspettare, quindi se ho aspettato fino adesso posso aspettare ancora un po', il più l'ho fatto, però adesso è ora di andare a lavorare. Tira un po' di nostalgia. Guarda, prima di congedarti, c'è un ascoltatore che ha chiesto di intervenire da Rimini, Roberto, e credo voglia fare una domanda a te. Facciamo sto strappo alla regola. Roberto, dica. Sì, buongiorno. Buongiorno al suo ospite che è Vasegna. Sì. La mia domanda è che io volevo fare una considerazione su Rimini, che secondo me quest'anno ha una squadra molto più forte degli altri anni e non riesce a, diciamo, a fare il salto di qualità. E volevo chiedere a Cavasin cosa ne pensava, noi lo aspettiamo a Rimini, insomma, se ha voglia di ricominciare, cosa ne pensava? Questo è potrebbe essere un bel appuntamento, Alberto, che ne dici? Beh, insomma, io la Romagna, ma a Rimini non è che non sono amato, però io ho allenato la Costa Romagnola, io l'ho giocato e allenato a Cesena, sì. Spesso a Rimini, direi, sono quasi più spesso a Rimini che nel Veneto, a casa mia, quando posso. Perché... Hai allenato anche a Ravenna, tra l'altro. Esatto, sì, poi ho allenato a Ravenna, e quindi è un po' una mia terra, proprio la sento, mi piace, la amo. Però insomma, io ho lavorato tanto bene a Cesena, e quindi quando vado lì qualche fischio, magari perdo, non mi fischiano, ma se comunque faccio il risultato viene fuori che... Però insomma, sempre nella sportività delle cose. Ma io dico che Rimini ha avuto questo cambio in panchina, dove Acori veniva da tantissimo tempo, e c'è stato un cambio in famiglia. Qualcosa è successo, ha pagato questo cambio, però adesso mi sembra che sia ritornato il Rimini degli altri anni, che sia più forte, e dico che è una squadra competitiva che può aspirare ai playoff, con la serenità dell'ambiente, della società, della serietà, e ritrovati questi equilibri col nuovo allenatore, che ha dimostrato di essere bravo, di saperci fare, come leggevo anche oggi. Adesso bisogna vincere in casa, gli manca questo passaggio, e poi può ritagliarsi un girone di ritorno, che più che mai in Serie B il girone di ritorno è super determinante, certo, e può ritagliarsi delle grandi soddisfazioni. Grazie ad Alberto Cavasin. Grazie a voi. Grazie, a risentirci presto. Tra poco un certo numero di ascoltatori già prenotati. Qualche notizia di giornata. Allora, intanto uno stop di almeno 3 settimane per Wayne Rooney. Lo ha comunicato lo stesso Ferguson. Rooney ha segnato ieri sera il gol della vittoria nel recupero di campionato contro il Wigan. Messo a segno in 1-0, pochi che ha deciso la partita e che ha riportato il Manchester United a 2 punti dal Liverpool, quindi la vetta della classifica, ma ancora con una partita in meno, quindi virtualmente davanti a tutti. Rooney ha accusato questo stiramento, lo ha detto chiaro Ferguson, resterà fuori per 3 settimane circa, speriamo non di più, ha aggiunto. È inutile dire che chi dovrà affrontare Manchester United prossimamente in Coppa Campioni si augura invece che uno come Rooney possa guarire con la massima calma. Se i miei fortuni dovessero continuare non giocherò più con la nazionale francese. Stamattina questo lo ha detto Patrick Vieira, anzi l'ho detto ieri in un'intervista all'Equipe. Ne ho abbastanza di infortuni a ripetizione, ha detto Vieira, e se dovessero ripetersi ancora una volta soltanto guarderò in faccia la realtà. Ne ho abbastanza di rigiocare 5-6 partite, tornare in nazionale e fermarmi di nuovo per 3 mesi. Da questo punto di vista ho già dato, e quindi se accadesse ancora una sola volta cancellerò la nazionale, anche se questo mi spezzerebbe il cuore. Poi c'è la trattativa su Kakà, che pare che sia comunque partita, perché al di là delle, cioè, gli inglesi scrivono che la dichiarazione d'amore di Kakà al Milan, secondo loro, è più che attendibile, ma è anche vero, e questo risulta ampiamente anche qui, che il Milan, di fronte a un'offerta di 100-110 milioni di euro, sta facendo seriamente dei pensieri. Nel frattempo il Milan ha acquisito, come si dice in questi casi, un difensore ventenne brasiliano che si chiama Mattioni. È stato lo stesso gremio di Porto Alegre stamattina a ufficializzare la cessione di questo difensore ventenne e di passaporto italiano. Il primo ascoltatore di oggi è Vittorio da Palermo. Buongiorno. Dottor Carenzini, buongiorno. Io non l'ho mai disturbato, né, non ho mai telefonato, è la volta che la sento. Lo faccio. Devo dire due cosette veloce. Uh-huh. Io sono ritornato ad ascoltare lo sport e il calcio grazie a lei, alla sua sincerità, professionalità e la sua modestia, perché mi ha fatto rinnamorare del calcio così, visto però dalla tribuna e non da tifoso singolo di squadra. Beh, Vittorio, questo devo fare i miei complimenti. No, li ha già fatti, nel senso che persino è imbarazzante. Le chiedo solo un'informazione così generica, no, tanto grande per piacere. Perché il mio scopo era che grazie a lei io mi sono riavvicinato allo sport così. Ecco, questo lo volevo sottolineare. E anche perché ogni tanto sento sempre qualche ascoltatore che dice lei partecipa a favore di cosa. Sì, questo è un classico dell'orrore di platea. Va bene, allora ascolta, solo un'informazione, che ne pensa parlo dell'Inter, no? Sì. Dove ho visto ieri un pezzettino di partita con Genova, sì, dove c'erano 10 stranieri e meno male che c'era solo Toldo, come mi pare in porta, e non c'era l'altro brasiliano, altrimenti 11 stranieri. E le domando, dico, ma è normale una squadra italiana dove ci sono 11 partecipanti su 11 stranieri e uno deve fare tipo per una squadra italiana che non c'è niente di italianità? Vittorio, è diventata una routine ormai. Poi il caso dell'Inter è ancora un caso abbastanza eccezionale nel panorama italiano, ma eccezionale per la totalità, per l'appunto, dei titolari stranieri, ma insomma mi pare che anche tante altre squadre, soprattutto quelle di vertice, siano abbastanza infarcite di stranieri. Se poi andiamo in Europa troviamo dei casi molto simili, come per esempio quello dell'Arsenal in Inghilterra. Può piacere o non piacere? A me personalmente no, a lei mi pare di capire anche meno, però è ormai è un dato di fatto, è il villaggio globale ha portato anche a questo tipo di globalizzazione in campo. Luigi, provincia di Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Grazie per avermi dato l'opportunità. Mi riferisco all'intervista che lei ha fatto qualche minuto fa parlando con Cavasin. Sì. E in riferimento al fatto che si citava la crisi appunto della provincia, in particolare del calcio di provincia. E è interessante perché in questo intravedo un po' quello che è anche un risultato di quello che è stato sono i media rispetto al rapporto col territorio, no? Rispetto al fatto che lo sport non viene visto più come l'obiettivo in sé per trasmettere anche valori, etica, insomma, ma soltanto come modo per, non so, per mostrarsi, per raggiungere obiettivi che in testa ai ragazzi possono sembrare delle cose, il vero obiettivo, quando è lo sport in sé invece è l'obiettivo, quello di mettersi in discussione e tirare fuori i talenti, la voglia, il lavoro. Questo mi sembrava una cosa interessante da far notare rispetto a quello che è quindi il distacco che si viene a creare tra i giovani, le loro aspettative e il territorio nel quale vivono. Ecco, questo volevo. Non so se è d'accordo. Sono d'accordo, sì, certo, perché è venuto meno questo legame, e di conseguenza è venuto meno, sta venendo, ma direi che è venuta meno la funzione anche sociale che lo sport può avere, il calcio forse in particolare, perché come sport è più praticato praticato in assoluto. Il rapporto col territorio è fondamentale e sopravvive nel calcio di provincia a livello sempre più basso, nel senso che una volta il meccanismo identificativo invece riguardava anche le squadre di vertice di quell'area. L'esempio che mi viene in mente è l'Udinese. L'Udinese non ha mai vissuto nella sua storia un ciclo di classifica così alta in Serie A, perché ormai dura da molti anni, e quindi i risultati, sui risultati nessuno può discutere. Il fatto che l'Udinese sia diventata una multinazionale quando una volta era la ribalta, era la vetrina della famosa razza Piave, ma questo non è assolutamente un discorso né razzista né tantomeno padano né tantomeno leghista, ci mancherebbe altro. È semplicemente un riferimento a quello che lei richiamava, e cioè questa mancanza di legame che oggi c'è tra calcio, tra sport, soprattutto di vertice e territorio. Da Milano ha chiamato Marcello, buongiorno. Garanzini, buongiorno, le auguro di cuore buon anno, le sa che sono un suo grande stimatore. Volevo dirle in merito al discorso di Kakà. Mi sente? Forte e chiaro. Ah, mi scusi tanto. Io ci penserei molto seriamente a questo punto, volevo un suo pensiero alla cessione di Kakà, perché ormai sono tanti anni che se ne parla, se offrono veramente quei bei euro che si dice, io ci penserei molto seriamente, anche perché non mi sembra più tanto stimolato qui a Milano ultimamente, non mi sembra integro dal punto di vista fisco, a patto che i 100 milioni, non dico tutti, ma almeno un 50-60 siano devoluti in una campagna acquisti, ecco, non nei vari nomi che ho nominato prima lei, che non so neanche chi sia. Beh, ma io non penso Shevchenko, Oliveira, insomma. Sì, certo, quel pericolo pericolo c'è indubbiamente, no, ma io credo che il pensiero, la riflessione che stanno facendo in queste ore, in questi giorni, i dirigenti milanisti sia proprio quella, cioè sia quella che fecero gli juventini una decina di anni fa quando toccò a Zidane. Mi pare che sia, l'ho ricordato ovviamente come sempre il più puntuale di tutti noi, che è Roberto Beccantini stamane sulla stampa, il parallelo tracciato da Roberto ci sta tutto. Perché per il Milan oggi privarsi di Kakà sarebbe esattamente come per la Juve privarsi allora di Zidane. La Juve scelse di farlo e direi che indovinò, non tanto perché Zidane non fosse più un grande campione, ma perché tutti quei quattrini permisero gli arrivi di Buffon, di Thuram, insomma fu rinforzata la squadra in altri settori. E nel ruolo di Zidane, insomma, si trovò il modo di supplire, anche se un altro Zidane in circolazione non c'era. Credo che il Milan stia esattamente pensando se una cosa del genere si può ripetere anche con Kakà o meno. Guardi che a Parma siamo quasi 10.000 abbonati, scrive Roberta con una mail quanto mai tempestiva. Beh, complimenti, c'è evidentemente qualche eccezione nel panorama desolante del pubblico in Serie B, e Parma è una di queste, non dico sia l'unica, ma insomma non andiamo molto lontano da questo aggettivo, perché insomma la flessione che il pubblico della B sta avendo da due stagioni a questa parte è sinceramente abbastanza impressionante, anche in piazze tradizionalmente favorevoli, insomma in piazze in cui in genere lo stadio si accorreva. Tocca a Salvatore, chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io chiamo per lamentarmi un tantino del troppo poco spazio che si dà nelle emittenti di riferimento nazionale alle squadre piccole. Per esempio, quel fatto che nessuno ha voluto discutere per bene, se fosse successo a una squadra tipo l'Inter o il Milan, avrebbero fatto porta a porta e non so quante altre trasmissioni, e mi riferisco al fatto che l'arbitro, credo in mala fede, abbia fischiato 5-6 secondi prima, e lei se lo ricorderà. La domenica sportiva non ne ha quasi neanche parlato, ma sono proprio bastardi, voglio dire. Non so se mi spiego. Sì, si spiega benissimo, Salvatore. Se anche non si spiegava, sinceramente, credo che il paese avrebbe continuato lo stesso ad andare avanti. Non so, forse un'edizione straordinaria le andava bene? Ma guardi che se fosse successo mi creda, non lo dico per fare così, per il piacere di fare politica. No, ma per carità, non, come è noto il vittimismo dei tifosi è sempre da escludere in partenza, quindi lei lo dice per un oggettivo amore di verità e di documentazione, questo lo si è capito chiaramente anche dal termine affettuoso che ha usato nei confronti di chi confeziona, bene o male che sia, la Domenica Sportiva. Grazie in maniera particolare del suo intervento, perché ogni tanto sinceramente il livello del target, che mi sembra un po' altino, di chi partecipa e ascolta questo programma va giustamente abbassato, e mi pare che sia arrivato un buon contributo da lei. Andrea, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Ascolti, chiama, non so se avete già parlato in merito alla partita della Juve di ieri sera, perché no. Ho acceso la radio da poco, ecco. Quindi il mio intervento era relativo al fatto, non tanto di sottolineare il fatto della partita che abbia vinto 3-0 la Juve eccetera, ma proprio il fatto della questa nuova suggestione della società, che praticamente da ieri sera notavo questo, che c'è stato un impegno al di fuori del normale per quello che è la Coppa Italia, quindi praticamente la Juve ha giocato con una formazione per vincere completamente la partita e non star lì ad aspettare cosa succedesse. L'altra è stata l'inserimento dei giovani, sicuramente ancora ha inserito altri due ragazzi giovani che arrivano dalla primavera, e poi, come dire, giocavano 9 italiani su 11. Scusi, 8 italiani su 11. Cioè che, ecco, era un dato di fatto, insomma, ecco, per dire che comunque secondo me che la società Juve, la nuova società da un paio d'anni, sta lavorando, insomma, credo sta puntando su queste cose, insomma, ecco. E che quindi ci sono sempre meno motivi in giro per rimpiangere quella vecchia, così ben rappresentata ieri sera su un altro canale televisivo rispetto a quello in cui la Juventus stava giocando. Grazie Andrea. Giulio dalla provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini, salve. A volte ci sentiamo via mail, ma mi riallaccio proprio a una cosa che lei ha appena detto relativamente alla vecchia dirigenza Juve. Ecco, premesso che io non sono tifoso né interista né juventino, quindi scevro da ogni interesse di parte. Spero, ecco, io lo dico, ma non ho dubbio che questo succederà, che lei continui come finora ha sempre fatto ad evitare manovre di revisionismo storico calcistico al quale stiamo assistendo, perché di revisionismo in Italia se ne sta già vivendo abbastanza in altri ambiti, ecco, ma non quel che non vorrei toccare, ma almeno quello teniamoci, perché sentendo ieri sera i discorsi che fanno oggi sono più o meno quelli che fa ogni giornalista lunedì, sudditanza psicologica, l'aiutino al forte, certo. Forse qualcosina in più è stato fatto da lui, però ho paura che si vada in una direzione, visto il prossimo processo di Calciopoli, ricordiamo alla gente che il processo Gea non c'entra niente con Calciopoli, perché anche questa è una cosa da specificare, perché vedo molta confusione in questi ultimi giorni. Se poi questo dà il là a un Calciopoli ridicolo come esito, come ho paura che potrà essere, allora ci sarà da pensare se, come sempre è capitato in Italia, il più ladro diventa anche un po' più furbo, ecco. Mi scusi l'amarezza dell'espressione, ma la salute e l'ascolto per l'altra. La crudezza dell'espressione, Giulio, grazie. Adesso ho capito perché, questo è uno di quei casi in cui non è difficile capire perché trascorro parecchio del mio tempo libero a corrispondere con gli ascoltatori che scrivono le loro mail. Nel suo caso mi pare abbia dimostrato con il suo intervento che ne vale la pena, o perlomeno comunque ne vale la pena rispetto a come interpreto io il calcio e il rapporto di affezione che si può creare con degli ascoltatori sconosciuti quando esistano delle basi di affinità elettive abbastanza ben precise. Questo è certamente il suo caso. Fausto ha chiamato da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, no, volevo dire solo due cose, brevi. Una riguarda Del Piero, e dico che come uomo e come pensatore avrebbe meritato più considerazione anche per quanto riguardava la nazionale ai tempi. Adesso lasciamo perdere, perché ormai è quello che è, anche se comunque resta un grande giocatore. E un'altra cosa riguarda Moggi, e secondo io sono abbastanza d'accordo su tante cose che Moggi ha detto ieri sera, sul fatto che comunque lui non era l'unico che faceva queste cose, perché anche altre società di calcio comunque avevano i loro interlocutori e le telefonate, era una cosa normale. E poi per quanto riguarda la corruzione, finisco, Moggi a quanto sembra non è mai risultato che lui abbia fatto della corruzione, no, e comunque no, le prove non ci sono, quindi anche su questa cosa qua ci sarebbe molto da dire. Vede che una bella comparsata a Porta a Porta a far da imbonitore, comunque quanto qualche in un programma idoneo a questo, anzi direi nella fattispecie di programma, vede che qualche traccia, qualche risultato lo può portare, perché in effetti, per esempio nel suo caso, direi che la comparsata è stata positiva, ha portato a qualcosa. Poi numero dalla maggior parte dei messaggi che leggo sul display non si direbbe, perché non dico uno stillicidio, ma una larghissima maggioranza di gente che non si è divertita a Porta a Porta. Molti mi chiedono un'opinione che non sono in grado di dare, perché se Dio vuole non sono imbattuto da, credo da sempre, ma in ogni caso da moltissimi anni, rispetto a quel programma in generale, figuriamoci in una serata in particolare come quella di ieri, per cui siete voi a dovermi raccontare semmai com'è andata, nel senso che io proprio non sono in grado di farlo e me ne vanto. Francesco da Bologna, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo semplicemente intervenire da tifoso più che da commentatore, insomma, perché ho sentito poc'anzi la telefonata di un altro tifoso, probabilmente il Catania, che parlava dell'episodio che era successo domenica scorsa tra la partita Napoli-Catania e che l'arbitro, giustamente, come dice l'altro tifoso, ha terminato la partita, o meglio il primo tempo, 5 secondi prima. Insomma, sono ora a parlare di sudditanza della squadra del Napoli, per me sarebbe un orgoglio, perché arriveremo, vuol dire, molto lontano, no? Nel prossimo futuro. Gli errori si fanno, ma se il tifoso ha visto bene, insomma, l'azione si è fermata da parte di tutta la squadra del Napoli, quindi era semplicemente un commento del genere, anche perché ho utilizzato delle parole molto molto forti sia nei confronti dell'arbitro, ma a questo punto mi sembra anche di capire rivolte che al Napoli stesso e ai tifosi, per questo, insomma, volevo fare solo questo mio intervento. Francesco, grazie. Sto perlustrando messaggi di vario genere, molto, molto interessanti. Che vergogna per un giornalista come Vespa ospitare Moggi. Invece sono un po' meno stupefatto da ciò. Fabio da Modena, buongiorno. Buongiorno, Granzini. Dica. Io sono un tifoso milanista. Sì. E il mio intervento era questo. Io volevo chiederle cosa ne pensava di quello che sta facendo in questo momento nel campionato francese, nel Bordeaux-Gourcuff, e se secondo lei, magari con la partenza di Kakà, oppure con l'esigenza di ringiovanire un po' la rosa, il Milan lo riprenderà indietro. Ne abbiamo parlato ieri, Fabio, faccio quindi per non essere troppo ripetitivi, le faccio un rapidissimo riassunto di quello che ha messo insieme Fabio Tavelli e che ci siamo scambiati ieri. Dunque, Gourcuff sta facendo un'eccellente stagione nel Bordeaux in campionato. Quando ha giocato in Coppa contro la Roma, un po' meno brillante, un po' meno determinante, oggettivamente lo è stato. Comunque sta facendo una grande stagione, è in prestito al Bordeaux, quindi è ancora di proprietà del Milan, ma poiché i prestiti del campionato francese non sono ammessi, i prestiti gratuiti, esiste già la clausola con una somma fissata per il riscatto del Bordeaux. Se il Bordeaux versa 15 milioni di euro a giugno, Gourcuff è suo e il Milan non ha più margini di rilancio. Se il Bordeaux non li versa, il giocatore torna automaticamente al Milan. L'appuntamento con la rubrica di Nicola Filippone. Che cosa è accaduto nella storia dello sport il giorno 15 gennaio? Sembra ieri. 15 gennaio 1967. A Los Angeles viene disputata la prima edizione del Super Bowl, la finalissima del football americano. L'evento è organizzato grazie a un accordo tra la National e l'American League, le due principali federazioni nazionali, che nel 1970 si sarebbero unite nella National Football League. La prima edizione viene vinta dai Green Bay Packers, che si impongono sui Kansas City Chiefs per 35-10. Negli anni successivi, il Super Bowl, che prenderà questa denominazione solo dal terzo anno, si trasformerà nel più grande evento mediatico dello sport mondiale. Il prossimo 1 febbraio a Tampa, in Florida, sarà disputata la 43esima edizione. No, leggo un sms con alcune vocali. No, Moggi no, anche qui no. Lo firma Marco da Carrara. Stia pur tranquillo, Marco. Se dipende da me, no. Poi non posso non rispondere agli ascoltatori se hanno questo sottile piacere di invece di occuparsene. Franco, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Dica. Io volevo ricollegarmi al discorso che faceva prima sul calo drastico e drammatico, aggiungerei, degli spettatori che ci sono appunto nelle partite di Serie B. È chiaro che il panorama complessivo rispetto a due anni fa è cambiato, perché non ci sono più certi squadroni, diciamo, che c'erano due o tre anni fa, per cui questo è anche fisiologico attendersi una cosa del genere. Se poi aggiunge le drammatiche condizioni economiche in cui versano tanti tifosi, questo non c'è da meravigliarsi. Io una proposta ce l'avrei, obiettivamente, forse potrebbe smuovere un po' le acque, se vuole gliela dico anche. La dica, proviamo. Di rimandare in Serie B la Juventus. Secondo me è l'unica soluzione. Beh, potrebbe... Io non le dico per quale squadra tifo o non tifo. Però secondo, guardi, Franco, me questa, allora, è l'unica soluzione. Ma non è l'unica, perché se la mettiamo sul piano del paradosso, si potrebbe far fare un giretto a turno, no? Un anno lo fa, adesso la Juventus ha dato, mi pare. Lo fa magari un annetto l'Inter, poi fa un annetto il Milan, poi fa un annetto la Roma. E poi si torna, magari si comincia a fare il giro alla Juventus. È ovvio che ma lo si capiva quell'anno, no? Proprio quell'anno del boom, indipendentemente dall'esito sportivo che la stagione ebbe, ma lo si capiva quell'anno che dall'anno dopo sarebbe stato drammatico per la B, perché è ovvio che quando tu porti quando crei un meccanismo di interesse automatico che si impone da solo, ma che sai che non potrà resistere, è ovvio che l'anno dopo la caduta è ancora più, negli anni successivi la caduta è ancora più verticale. La sfortuna della Serie B di quell'anno fu che non solo venne promossa, come era logico, la Juventus, ma salirono anche Napoli e Genova, e quindi fu depauperato proprio il torneo dalle tre squadre principali, non soltanto dalla primissima, ma anche dalle altre due, che avrebbero potuto comunque continuare. Buon per il Napoli e Genova, è sottinteso, ma adesso ne stiamo parlando nell'ottica della Serie B. Ecco il perché di queste riflessioni sue a voce alta e poi di quelle che possono conseguire. Sono usciti i dati orari dei quarti di finale di Coppa Italia. Allora, Inter-Roma e Udinese-Sampdoria si giocano mercoledì prossimo, 21 gennaio, rispettivamente alle 20:45, Inter-Roma e alle 18 Udinese-Sampdoria. Lazio-Torino si gioca il giorno successivo, giovedì 22 gennaio alle 21. Juventus-Napoli è in programma mercoledì 4 febbraio alle 20:45. Tutte e quattro le partite saranno trasmesse in diretta dalla RAI. Torniamo agli amici in ascolto. Walter Pescara, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo tornare al discorso degli stranieri. Lei ha detto che praticamente la globalizzazione che ha creato questo clima di stranieri. Globalizzazione. Però diciamo che tutte le squadre grandi hanno un grosso numero di stranieri, diciamo. Però dico io, non dimentichiamo che il mondiale è firmato Roma, Milan e Juventus, quindi direi a tutti gli interisti in ascolto che quando si vince la Coppa del Mondo mi sembra meglio che stanno a casa. Grazie. Grazie a lei, Walter, grazie a lei di cuore. Lorenzo da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. La chiamo sull'intervento di Moggi ieri a Porta a Porta. Sì. Allora, premetto che io sono tifoso juventino. Sì. Io credo che si stia facendo un po' di confusione, soprattutto la fa Moggi, tra quella che è la giustizia penale e quella che è la giustizia sportiva. Ma meno male. E mi spiego meglio, cioè dal punto di vista penale, secondo me, probabilmente Moggi risulterà assolto, probabilmente anche sul lato Calciopoli. Questo io non lo metto in dubbio, sono anche sicuro che ha delle ottime carte i suoi difensori. Beh, le faccio un piccolissimo inciso, a patto che i suoi difensori siano un po' più presenti in aula di quanto non lo sono stati con le citazioni. Hanno citato come teste il povero Ruggeri, presidente dell'Atalanta, Ivan Ruggeri, e lo dico povero perché un anno oggi fu colpito da un ictus da cui non si è ancora ripreso, nel senso che è in coma esattamente da un anno. Quindi, dato che fa parte dei testi citati dalla difesa di Moggi per il processo, ripeto, mi auguro che poi gli avvocati in aula siano più presenti. Quanto poi la lascio continuare, ci mancherebbe altro, ma intendevo dire che lei già mette un segno 2 sulla schedina, su cui io andrei un pochino pianino, perché prima vediamo lo sto processo, sentiamolo, tenendo conto che a sentenza si andrà a girare 2 o 3 anni, non prima, da quel che si è capito. Certo, prego. Io però, diciamo, vedendo com'è andato il processo GEA, posso intuire la soddisfazione di Moggi e anche le buone speranze che ha Moggi sul risultato della giustizia ordinaria. Su quella sportiva, secondo me, il ragionamento è completamente diverso, perché le prove oggettive del comportamento non regolamentare di Moggi ci sono. Cioè, ci sono e sono indiscutibili. Ci sono e ce n'è da vendere, e quindi sinceramente non, insomma, anch'io faccio un po' fatica a capire esattamente come lei, Lorenzo. Io faccio fatica a capire, la prima cosa che ho fatto fatica a capire è stata l'esultanza per la sentenza GEA, se devo essere sincero, perché è vero che non è una novità festeggiare una condanna come fosse una soluzione in questo povero paese, però è anche vero che, insomma, con quella teatralità e con quella sicumera, insomma, non sempre accade. Diciamo che a Moggi era già accaduto forse in qualche altra occasione, ma non è nemmeno il caso di stare a rimangare. Giorgio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, la ringrazio dell'opportunità. Sì. Volevo dire, tra tutti gli argomenti che mi fanno incavolare in questo periodo sul calcio, uno solo diciamo mi ha colpito, è quello di Amauri sulla convocazione o meno in nazionale, sulle sue dichiarazioni che chi lo chiama, lui a quella nazionale si rivolgerà. Io penso che sia proprio un comportamento vergognoso e soprattutto diciamo, anche dei giornali italiani, che ne parlano poco nello stigmatizzare queste dichiarazioni di Amauri stesso. La ringrazio. Grazie a lei, ma non saprei, nel senso che effettivamente l'atteggiamento di Amauri è, come dire, un divago. Ora, un divago, cioè essere incerti, non essere ben sicuro di che strada prendere, quando si deve prendere, quando si è alla vigilia una decisione molto importante, è più che comprensibile, è umano. Però orientare questa decisione a seconda non so, di sbalzi d'umore, di segnali che arrivano o non arrivano, beh, sinceramente, in effetti è abbastanza fastidioso. Non mi pare che Amauri negli ultimi tempi si sta comportando benissimo in campo, un po' meno fuori. Mi pare di aver capito che anche Lippi è leggermente irritato per questi atteggiamenti da tira e molla. Abbiamo avanzato il tempo necessario per ascoltare un frammento di Zenga Ranieri nel dopo partita del dopo Juventus Catania di ieri sera. No, commentare un 3-0 è sempre difficile, però è troppo semplicistico dire che abbiamo iniziato male la partita. Noi abbiamo di fronte una grande squadra, abbiamo cercato di fare il nostro meglio e la cosa che mi è piaciuta è che alla fine comunque abbiamo cercato comunque il gol, e questa è una bella mentalità e dobbiamo continuare con questa strada di cercare comunque di fare la partita, anche se sul 3-0 non c'era più niente da dire. Soprattutto dopo che la lunga sosta di 20 giorni, avevamo visto che giocando ogni 3 giorni la concentrazione era sempre massima, e invece contro il Siena non avevamo la concentrazione al 100%. Ma Giovinco ha fatto una buona partita, anche nel primo tempo ha creato parecchi problemi alla difesa, quando punta l'uomo nell'uno contro uno è bravissimo. Dovrei dargli più continuità, però la squadra sta andando bene così, però sicuramente gli darò lo spazio che merita. Tempo scaduto, non tanto per Giovinco, tanto meno per Ranieri quanto per noi. Grazie dunque a Peter Bescappè in regia, a Flavio Suarni in redazione. Giornale Radio.